60 cacciù che era guerreggianti, voli ammazzare in un grandi serpenti, e lui voli ammazzare avanti a Dio, e viva Santa cacciù mio. Agazio si partiu di Palestrina e su ta cappella ciù si fermau, o cavalleri di lungo cammino, chi cosa va in cerca sti paraggi? Originella tu chi stai a fare, su sti collini chi stai a guardare, cade lo re su stata condannata, cade lo drago mo sarò mangiata. Di mari si sentì un gran rumore, lo drago si sta già per avvicinare, lo cavaliere subito si armau, originella non aver paura. Originella non aver paura, cade lo drago ti farò salvare, originella sta carme non giangira, che a casa poi ti vengo a accompagnare. Occhia a luce lo cavaliere alzau, e con lo soli sa ricomandau, o Gesù Cristo me o mando veni, o puramente lo soli tarteni. L'usuli obbedienti si fermau, un cavaliere a mano si armau, appena un drago all'arriva arrivau, a testa con la spada ci tagliau. La figlia dell'urre l'accompagnau, al palazzo sola la presentau, popolo che va vita a convertire, che tutti va vita ad atterrare, tutta la gente si mise a ciangere, lo cavaliere ne venne a salvare. Tutta la gente si mise a ciangere, sto cavaliere ne venne a salvare.